in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa ex europea e ora più internazionale. Abbiamo quindi un po' allargato lo sguardo, non soltanto come facevamo comunque anche prima, sfogliando i giornali non solo europei, ma anche proprio occupandoci anche di questioni che non sono strettamente legate all'Europa o all'Unione Europea. E questa settimana parto da Internazionale che trovate in edicola da ieri e che è oggi ha una copertina dedicata agli attentati di Londra e in generale a come affrontare il radicalismo islamico e il terrorismo di matrice islamica, ma vi segnalo in particolare, mi ha molto colpito perché la questione, come forse chi segue questa rassegna sa, mi sta molto a cuore ed è quella del ruolo dell'ONU, il ruolo che l'ONU ha avuto soprattutto nelle guerre che io, che sono del 1969, ho visto da adulta, quindi quella dell'ex Jugoslavia in particolare e il genocidio del Ruanda, dove l'ONU è stato di fatto impotente, se non addirittura alcuni pensano un'impotenza che diventa quasi complicità. Il New York Times ha pubblicato questo breve editoriale che vi leggo almeno in parte, si intitola «Le colpe dell'ONU ad Haiti». La lezione di oggi su come non assumersi le proprie responsabilità morali arriva dalle Nazioni Unite. L'organizzazione si è detta molto preoccupata per l'epidemia di colera a Haiti e vuole fermarla, ma non sa dire come e quando né con quali fondi. Il chi e il perché invece sono noti. L'ONU ha il dovere di mettere fine alla crisi del colera perché l'ha provocata. La malattia non esisteva ad Haiti finché non ce l'hanno portata i caschi blu nepalesi che nel 2010 hanno versato i propri escrementi in un fiume. Da allora il colera ha ucciso più di 9.000 persone e ne ha infettate 800.000. Per tutto questo tempo l'ONU ha cercato di nascondere la sua responsabilità. Solo a dicembre del 2016 l'allora segretario generale Ban Ki-moon ha annunciato un piano per eradicare il colera dall'isola e poi appunto potete leggerlo sulla pagina degli editoriali di Internazionale, ma nonostante questo proclama di Ban Ki-moon, che nel frattempo ha lasciato il suo posto di segretario generale dell'ONU, il colera continua a fare vittime ad Haiti. Cambiamo completamente argomento, ci spostiamo, torniamo in Europa, sulle pagine della Süddeutsche Zeitung, che insieme alla Frankfurter Allgemeine Zeitung è uno dei più importanti, anzi il più importante quotidiano tedesco. Il primo articolo che ho tenuto da parte di questa settimana riguarda i rapporti della Germania con la Turchia, che sapete essere molto tesi in questo momento, benché la Germania negli anni abbia accolto tantissimi turchi che sono la componente più importante dei cosiddetti Gastarbeiter, cioè i lavoratori chiamati in tedesco con un termine che forse è anche discutibile e non è questione di politicamente corretto, lavoratori ospiti. In ogni caso ha scritto la Süddeutsche Zeitung che il governo tedesco ha rifiutato nei mesi scorsi per 11 volte in totale consegne di attrezzature di riarmo alla Turchia. È stata infatti un'interrogazione al Ministero dell'Economia da un esponente del partito della Linke su questa questione e il governo ha risposto che le attrezzature militari richieste da Ankara possono essere impiegate nella repressione interna seguita al fallito colpo di Stato, lo ricorderete, della scorsa estate, il giorno prima dell'orribile attentato a Nizza. Questo comportamento però è inusuale fra paesi partner della NATO perché una regola governativa permette tuttavia la possibilità in casi specifici di una limitazione nelle forniture per motivi politici particolari e questo sarebbe sicuramente il motivo, quello spiegato appunto, che si teme che le forniture che sulla carta servono per difendere il paese da minacce esterne, in realtà, visto quello che sta succedendo in Turchia e il tipo di repressione che sta portando avanti Erdogan da ormai possiamo dire da anni e non da mesi, il culmine è stato dopo il colpo di Stato di luglio, ma prima le cose non erano certo idilliache, ebbene in questo caso appunto la Germania può decidere di fare un'eccezione alla regola che le impone il fatto che sia la Germania che la Turchia sono membri della NATO. Un'altra notizia dalla Süddeutsche Zeitung, che è un quotidiano generalista, anche delle pagine di economia molto interessanti e approfondite, si concentra sulla Deutsche Börse, cioè la borsa tedesca, perché scrive la Süddeutsche Zeitung: dopo le elevate probabilità di fallimento del progetto di nozze con la borsa di Londra, l'LSE, il London Stock Exchange, la borsa tedesca prevede una drastica riduzione dei costi nel breve termine, con un ammontare che potrebbe essere almeno decine di milioni di euro. Questo naturalmente vorrà dire anche tagliare il personale, quindi licenziamenti che arrivano in tutti i settori, anche se poi forse lo avrete letto, nei giorni scorsi sono stati anche resi noti gli stipendi dei vertici bancari delle banche italiane, ma anche dei bonus dati in molti altri paesi. Insomma, sembra che quel settore sia immune da ridimensionamenti, o almeno gli stipendi di alcune persone che lavorano nel sistema bancario. Per spiegare come comunque ci siano anche delle voci interne alla Germania contrarie, critiche verso la politica di austerity portata avanti in special modo dai governi della cancelliera Angela Merkel, alla FAZ il ministro degli esteri Sigmar Gabriel ha criticato questa politica di austerità imposta, ha detto lui stesso, dal mio paese al resto dell'Unione Europea, e teme che questo possa inasprire i rapporti. Naturalmente tutto questo è stato scritto anche in vista degli incontri che ci saranno oggi a Roma per i 60 anni dei trattati che sono alla base dell'Unione Europea, e vedremo, perché sapete che sono anche previste molte proteste, speriamo il più civili possibili. E speriamo che i Black Bloc, o come vorranno farsi chiamare questa volta, semplicemente i disturbatori, che naturalmente, come abbiamo visto al G8 di Genova, sono in realtà molto più che disturbatori. In ogni caso, vedremo se appunto ci sarà spazio per discutere davvero di temi come questo, cioè delle politiche di austerity, oppure invece si dovrà soltanto cercare di limitare i danni di chi si oppone alla manifestazione. A proposito di banche, invece, ci spostiamo in Francia, perché pare che molti banchieri francesi, per tornare poi ai banchieri, siano preoccupati per un'eventuale vittoria di Marine Le Pen alle elezioni presidenziali di aprile-maggio. Sapete che c'è un doppio turno, e addirittura quella che Marine Le Pen ha nel suo programma da leader del Front National, cioè lo studiare l'uscita della Francia dall'euro o addirittura dall'Unione Europea. Le Monde rispolvera un'espressione usata dagli anglosassoni, che è Black Swan, letteralmente cigno nero. Sapete che i cigni sono nel 99,999% dei casi bianchi, ogni tanto ne nasce uno nero, è un evento assolutamente imprevisto e quasi imprevedibile anche da biologi e genetisti, e questa è un'espressione con cui il mondo della finanza definisce i cataclismi in teoria improbabili. E appunto c'è chi ipotizza che una vittoria di Marine Le Pen sarebbe veramente negativa per l'economia francese, e purtroppo abbiamo visto che c'erano previsioni simili per la Brexit e poi la catastrofe non si è verificata. Le Figaro invece ha ospitato un'intervista a Romano Prodi, che sapeste è stato anche presidente della Commissione Europea, un super europeista, e dice in questa intervista: generalmente si commemorano i defunti, l'Europa non è morta, Brexit e le tensioni attuali ci indicano un'altra cosa, che non possiamo restare immobili. Prodi ha auspicato in questa intervista che la dichiarazione congiunta, che speriamo venga adottata oggi a Roma, perché sapete che alcuni paesi, tra cui la Grecia, hanno minacciato di non farlo, possa instaurare, riprenda la proposta di Angela Merkel sulla necessità di instaurare collaborazioni più strette tra quei paesi che hanno la volontà di progredire insieme per fare uscire l'Europa dall'impasse. Torniamo però sulle pagine di Internazionale, e ci spostiamo veramente in un altro continente per un'altra notizia che secondo me è stata tra le più buone, più positive e che più fanno sperare del 2016, che è quella della tregua finalmente in Colombia tra le forze governative e le FARC. Di fatto si tratta della fine di una guerra civile. Semaña, che è un magazine colombiano, scrive: migliaia di guerriglieri sono arrivati nelle zone stabilite con il governo colombiano per deporre le armi. Dovrebbero restarci 3 mesi, ma è probabile che i tempi saranno più lunghi. Però in ogni caso questa veramente è una vittoria del governo di Juan Manuel Santos, che sapete ha avuto anche delle difficoltà poi a far passare questo accordo che è stato in un primo tempo rifiutato da un referendum popolare. Adesso però ci si avvia con lentezza, ma sembra comunque con decisione sul percorso davvero di questa rapacificazione che naturalmente prevede come primo passo la deposizione delle armi e poi la cura di tutte le ferite che questa guerra civile ha provocato in Colombia. Un'ultimissima segnalazione, ancora da internazionale, come sempre ricchissimo di spunti, sempre gli editoriali. La Tageszeitung ha pubblicato un commento sui trattati internazionali che l'Unione Europea sta negoziando o dovrà negoziare, mettendo in luce ancora una volta quali sono le criticità che, senza passare agli eccessi di Donald Trump, vanno rimesse in discussione perché poi questi trattati vengano visti come una cosa positiva e non scatenino altre reazioni anti-Unione Europea. Ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.